intorno a me il buio da miliardi di anni luce. Non capisco se è normale una felice coincidenza. Lo sento, sono in viaggio senza una meta. Mi scalda il cuore il freddo mentre mi entra nelle ossa. Sono un asteroide, viaggio tra costellazioni di stelle la cui luce non arriva ai miei occhi. Un'anima sincera, a largo abbandonata, come un cane dal padrone d'estate in autostrada. Stronzo è il padrone, stronza è questa vita. Non ti dà navigatori, non ti dà una via d'uscita. Intorno solo il nero è sempre una oscura notte, che ormai mi fa da madre, figlia, amica, nonna, sposa. Sono un asteroide, viaggio tra costellazioni, cercando l'ingresso per un sistema ad abitare. Corpo estraneo, disperso, ripudiato dall'universo, come Ulisse per lo spazio, senza porto, senza attracco. Atmosfera mi farà disintegrare, anche se una scorza dura sai come farmi male. Ti racconterei di stelle, potessi da te impattare, di pianeti e supernove, un paradiso tropicale. Sono un asteroide, viaggio tra costellazioni, non m'è concessa una fermata, mi vedrai passare fuori. Un'anima sincera, dal fato condannata, non sfiorarti all'infinito, a regalarti un solo sorriso.